America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24, da New York Mario Platero. Beh, l'America ha seguito, devo dire, con grande attenzione e apprensione quello che è capitato nelle elezioni francesi. Dunque, le elezioni francesi hanno dominato la cronaca di ieri, di questa mattina. Sentiamo. You know, the US was working to kind of integrate and strengthen the European Union, and that's... Beh, la reazione americana è stata una reazione favorevole al nuovo, soprattutto perché con l'affermazione di Macron, che rappresenta una svolta centrista, se vogliamo, perché alcuni elementi di centro, alcuni elementi di sinistra, ma è soprattutto a favore dell'Unione Europea. Ecco, col voto del 7 maggio che vedrà Macron contro Marine Le Pen, dal punto di vista americano non ci saranno dubbi, dovrebbe vincere senza dubbi Macron. Dunque, la notizia delle elezioni francesi nell'insieme è positiva, c'è un grosso sospiro di sollievo. Posso raccontarvi un retroscena che riguarda anche il famoso tweet di Donald Trump, quando a un certo punto aveva detto: beh, un nuovo attacco terroristico a Parigi, la popolazione francese non accetterà che questa situazione possa continuare e questo attacco avrà grosse conseguenze sulle elezioni presidenziali. Ecco, questo tweet era ambiguo, non era chiaro se si schierava davvero con Marine Le Pen o se si schierava invece con Fillon, che aveva anche lui un programma molto duro nei confronti dei terroristi, nei confronti del controllo dell'immigrazione. Dunque non era chiaro da che parte andasse Trump. Probabilmente non andava nella direzione di Macron. Tra l'altro Donald Trump preferisce avere a che fare con delle persone di una certa età, diciamo, che abbiano maturato un'esperienza anche di vita. Macron è certamente molto giovane. E tra l'altro, a un certo punto, il presidente americano, parlando con Tillerson, queste sono indiscrezioni che abbiamo raccolto in ambienti vicini alla Casa Bianca, a un certo punto gli ha detto: guarda, dopo questo attentato non c'è dubbio che vincerà la Le Pen. Il suo però non era un auspicio, attenzione, non era un auspicio, era un pronostico, e in questo caso Donald Trump il pronostico non l'ha azzeccato, perché sembra impossibile ovviamente che nello scontro finale del 7 maggio la Le Pen possa farcela contro Macron. Dunque il quadro riflette che cosa? Riflette piuttosto questa dichiarazione di Donald Trump, che ha fatto l'altro giorno durante l'incontro con il presidente del Consiglio Gentiloni. Sentiamo. A strong Europe is very, very important to me as President of the United States, and it's also important for the United States. We want to see it, we will help it be strong. Ecco Trump che dice: un'Europa forte è molto importante per me come Presidente degli Stati Uniti, dunque personalmente, ma è anche molto importante per l'America, per gli Stati Uniti d'America. Aiuteremo l'Europa ad essere forte. Ecco, su questo evidentemente la sintonia potrebbe esserci. La svolta di Donald Trump annunciata durante l'incontro con Gentiloni, una svolta pro-europea, a questo punto con l'elezione di Macron assume dei contorni molto concreti, ma assume anche un profilo molto molto importante, quello per il rinnovo di questa Europa un po' vecchia, di questa Europa per le regole, di questa Europa burocratica, di questa Europa sotto lo spell, diciamo, sotto il controllo della Germania, che chiede in continuazione austerità, che non vuole aprire a politiche fiscali di stimolo, soprattutto che non vuole aprire a un respiro finanziario europeo, a un bilancio europeo. Io credo che questa elezione francese del 7 maggio aprirà sì una nuova strada per l'Europa, ma una strada in convergenza con quelli che sono poi gli obiettivi dell'amministrazione americana e quelli che erano gli obiettivi, secondo una linea di continuità, anche di Barack Obama. Here's President Trump's agenda for the next week. He also plans to announce a major tax reform plan on Wednesday. At the same time, Trump's also pushing for Congress to pass a health care plan and a spending bill by Friday. And if it can't agree on a spending bill, well, the government will shut down. So it's... Ecco, questa è la settimana, e la copertina la dedico a questa, più che all'elezione francese, perché l'elezione francese è certamente importante, ma è la settimana dei 100 giorni di Trump. Alla fine di questa settimana, si dovrà fare un bilancio, i famosi 100 giorni, e per ora Trump ha combinato poco. Nella conferenza stampa con Gentiloni ha detto che avrebbe ottenuto questa settimana due voti importanti, sperava in un voto per la riforma sanitaria, tra l'altro annuncerà, almeno così ha detto, cogliendo di sorpresa i suoi consiglieri, annuncerà il piano per la riforma fiscale, un piano molto importante. C'è un rischio anche di shutdown del governo. Perché? Beh, perché Donald Trump ha ribadito che il finanziamento del muro alla frontiera messicana è una condizione necessaria per l'approvazione del budget e vuole che il Congresso approvi almeno una parte del finanziamento per la costruzione del muro, cioè 1,4 miliardi di dollari. Questo per iniziare appena i primi chilometri. Dopodiché, dice, sarà rimborsato nel tempo dai messicani. Ecco, su questo punto però in congresso si tentenna e dunque ci sarà un veto di Trump al bilancio che potrebbe essere approvato. Ecco, quest'ultima settimana che porta i 100 giorni di Donald Trump dunque sarà una settimana complicata e una settimana caratterizzata tra l'altro da sondaggi che non sono del tutto favorevoli al presidente, anzi direi che sono finora forse i peggiori sondaggi per un presidente nei primi 100 giorni. Trump ha avuto delle difficoltà però ha un vantaggio, il 96% della sua base politica continua a sostenerlo, dunque non si sente tradita dai cambiamenti di rotta in politica estera e continua a dargli fiducia. E il grosso, direi, del paese, che porta i sondaggi su livelli molto più bassi, l'indice di approvazione per Donald Trump sono al 42%, che è la percentuale più bassa dall'era di Eisenhower per i primi 100 giorni di un presidente. Del resto, alcuni dei cambiamenti importanti Donald Trump li ha fatti solo appena poche settimane fa. Forse ci vorrà qualche cosa di più, forse nel giro di qualche mese queste percezioni cambieranno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. C'è questo rischio di chiusura del governo americano e dunque dei Beach Boys, Shut Down. Jack it up, buddy, gonna shut you down. It happened on the strip where the road is wide. Shorts standing side by side. Yeah, I'm feeling Jack the Stingray in a 413. We're revving up our engines and it sounds real mean. Tack it up, buddy, gonna shut you down. Declining numbers at an even rate. At the count of one, we both accelerate. My Stingray is light, the slicks are starting to spin. But the 413's really digging in. Gotta be cool now, power shift, here we go. She's too much. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.